c'è stato detto che ci sarà un tetto sia per quanto riguarda il reddito, sia come, come, diciamo, come tetto di somma, esatto, come beneficio, come somma tra straordinari e premi variabili, cose più o meno che già conoscevamo. Non ci sono date non ci sono state ancora date cifre specifiche, verranno decise domani. Per quanto riguarda questa iniziativa, la posizione di Confindustria è nota. Noi condividiamo questo provvedimento di tassazione. È un provvedimento, lo voglio sottolineare, che in realtà va tutto a vantaggio dei lavoratori. Noi comunque lo condividiamo perché dal nostro punto di vista è un modo, è un primo passo, ovviamente non è l'unico, ma è un primo passo significativo per coniugare produttività e salari. E ovviamente questi due sono i temi più critici, essenziali che il nostro Paese deve affrontare.